sensibile, la guerra è una sensibile, non so, magari all'ascolto, vediamo un po', sì, no, sì, no, ogni tanto fa così, ogni tanto si disintossica, ma la 27 e va nella tua frequenza e viceversa, sì, no, Santiano 8, sei Santiano 8 e poi la modulazione è un po' compressa, ma lo sa, ecco, un po' compressa, si sente che è un po' compressa, ma leggermente. E cosa stai usando? Ma cosa stai usando come linea? Invece l'apparato che cosa stai usando adesso? Ho detto come apparato, cosa stai usando? Ah, ho capito. No, io in macchina non la metto più. Adesso la cambio la macchina, la porto tutto, non la metto più. Ah, ma la macchina no, non faccio il buco di uova alla capota, stai scherzando, no? Ciao Giuseppe, buonasera. Non mi sente le vesti. Allora, dice Giuseppe, se non mi sente, che non soffre nulla per la catarata. Io gli ho operato tutti e due gli occhi di catarata, non ho sofferto niente. Quando ti svegli, sei con la pelle, poi piano piano la tosi, vedi la luce un po' rossa e poi cominci a bere bene. Non ti preoccupare, Giuseppe, non soffri nulla. Giuseppe, basta che ti chiami una ambulanza, ti porta fino all'ospedale, ti fa un'operazione, poi la richiave ti riporta a casa. Qual è il problema? Mi arrivi bene, Giuseppe. Non lo so se tu mi ascolti a me, ma ti arrivi bene. Non mi risponde. Santiago 4, sì, però la modulazione adesso è quella chiara. È forte, non è più come prima che era leggera, leggera, non si sentiva. Adesso si sente. Sì, sì, se di là mi arrivi benissimo. Santiago è 4, ma io magari non sono favorevole per te, non lo so. Che microfono è? Ho detto che tipo di microfono stai usando, Giuseppe. Era l'MC60. Esce bene, dai, esce bene. Cavale, ma ci sta uscendo bene, se non c'è problema, sempre avremmo detto. Sta uscendo bene. Avanti, forse è una delle volte che ti sento bene, dai. Forse è l'unica volta che ti sento proprio bene a fondo. Ehi, allora, dimmi come mi ascolti adesso. Che era chiaro. Ma ti piace? Ah, c'è stato un altro, quello che c'è proprio in macchina, a vedere come mi ascolti. Però gli ho tolto l'eco, il checco gli ho tolto. Hola, attenzione, canale 10, cambio, se ne va questo apparato, guarda, 1, 2, 3, prova, cambio. Mi ha detto, come mi ascolti con questo, che Santiago c'ho, guarda, 1, 2, 3, prova. K, hola, aspetta un attimino. Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, prova. Attivi Aves, allora, e guarda se è regolato bene, attenzione, binario 10, cambio. Check. Hola, hola, hola, hola. Attenzione, binario 10, cambio. Lascialo così che va perfetto. Chi sei su 10? Io già di poi Alghero, là. C'è poi c'è Giuseppe, cosa come si chiama? Ah, ciao già, io ho capito, no, non lo sento qua lì. Vabbè dai, allora che entri qua, perché tanto se non lo sento. Vabbè, ci sentiamo, ciao già. Ciao, non lo piace. Sì, c'è va lì, tanto non mi sente e non lo sento, per cui. E io ti faccio la porta io. Ehi, non sta bene, dai. Vabbè, non va bene così. Ma come mai la parata non la tiene, non mi fa porta così? Ma deve attaccare i suoi 300 watt, allora qualche cosina riesco a sentire, ma a me non mi sente, per cui l'antenna ce l'ho bassa, o già, è di polo basso basso, cosa vuoi fare? Ma non l'avete sul tetto? Io lo metterò in estate, adesso non ci provo nemmeno, non ci penso proprio. No, non dico adesso, magari come c'è caldo, anche adesso se fa qualche giornata bella si può fare. Ma sono queste giornate che sono ieri, avanti, allucinante. Se voglio allungo il tubo qua, meglio, cambio il tubo, lo metto lungo, se può stare anche dove, ma la posizione sua era dall'altra parte, per cui lì è molto più alta, sarà almeno 5-6 metri più alto. Vedi, ha quattrato lì da mezzo, capito? Non ti dà fastidio almeno, sarà 27, non ce l'hai in mezzo, eh. Avanti, Valerio. Valerio. Ah. Giuseppe, è entrato Giulio Nola, lo senti? Quanto? Ah. Ho capito. Giulio, rimani, dai. Ci ho già fatto chiacchiere. È già che tanto, sono già 7 e mezzo. No, ma lo sento, non sento nemmeno Giuseppe, sento. Ma se da Giuseppe l'ho sentito da quando c'è in frequenza due o tre volte, ma un anno fa, come minimo, poi non l'ho più sentito. Nemmeno quando ho cambiato l'antenna, quando hanno fatto tutti quei lavori, eccetera, nuovo, non l'ho più sentito, più. Eppure oggi arriva bene di radio, è forte, che radio è forte, Santiago non è dei migliori, io la sento come Santiago di 4, però la radio è bella forte. Vabbè, ma io qui non lo sento per niente, anzi il lago non lo muovo nemmeno, non si muove l'ago, nemmeno uno, nulla, zero completo. Ma come ricezione, quanto ti dice a questa antenna, si possono misurare? Non lo so. Ma penso di sì, ci sarà qualche strumento adatto che misura i decibel, sicuramente c'è, però ma l'antenna va benissimo, guarda, ho parlato in quest'estate, ho parlato tantissime volte col continente, con l'estero addirittura, Portogallo, Spagna, Germania, dappertutto, per cui io, da Alghero, che la posizione da Alghero verso dove sono io è critica, ma da sempre, sempre è stato così, da sempre, da quando addirittura c'era frequenza Mariolino, mi ricordo, lo sentivo basso, con qualsiasi antenna, anche quando avevo la Grand Prix, quando abitavo nell'altra casa, e quando anche con la manta, ma io lo sento sempre molto basso, non c'è niente da fare, capito? Io sono ai piedi di Monteoro, per cui prima di scavalcare bisogna che sia lontano Monteoro, se no è come quello che fa il salto in alto, se ti metti sotto l'asticella, anche se sei alto 1,90 m, non salti proprio ben niente, devi prendere la rincorsa lontano. È così, è lo stesso discorso per la radiofrequenza. Vabbè, certo. Avanti, Maris, sì che ti senti, io ti sento sempre. No, l'altro è Giulio Nola, l'ho entrata adesso, là. E mi saluto. Ma come ti senti? Non si muove manco lo smitter adesso. E non la notta per lui, capito? La della notta, c'è Monteoro, là. Oh, che giornata, Lucia. Lui è salato a fare un po' di spese, mi ha detto di prendermi le figlie, ho detto fate le figlie, vai, c'eravamo un paio di giorni, mi ha detto continua a fare, già, fatelo anche un po', così ti riposo. È meglio così già, e almeno non sei contento. Poi se ti aspettano è giusto che tu ce l'abbia queste figlie, no? Se no va a finire che poi magari quando ce ne sono tanti non te ne fanno mai fare, non riesci mai a esaurirle tutte quante. Sì, adesso quello di calma, guarda, per quello anche, c'è calma. Questi due mesi, gennaio, febbraio, poi comincia a marzo, aprile, comincia già a aumentare. Ma gennaio, febbraio sono due mesi molti. Forse anche per quello che c'è, potete delle file all'entrata l'anno scorso, quindi magari per quello. Ma non mi sarebbero servite quando dovevo andare a prendermi la macchina, che facevo tutti i documenti, tutto quanto, e ne ho tranquillo, invece sarebbe toccato tutto pure. Vabbè, si sa. Queste cose purtroppo succedono, capitano. E vabbè, ma magari domani nevica anche di già qua. Perché ho letto il computer, il giornale praticamente, non stavo leggendo il computer, no? E potrebbe arrivare anche al livello dei 200 metri sopra il livello del mare. Ora sì che nevica anche, a Tempio è tutto bianco, non ci sono dubbi. Tempio, in Gallura insomma è tutto bianco. Soia. Andiamo a vedere, barracca, io la macchina non cammina, se non metti molta strada, poi cacchio faccio, si scivola. Lo so, d'altronde cosa ci vuoi fare? Va bene, va bene, va bene, va buon dai già, ti lascio, dai. parla con Valerio e così vai avanti, tanto è già anche tardi, per cui continuo a guardare la televisione. Tutta la sera non c'era un'anima su questo canale, sono passato sul 23 e stavano dicendo delle cose e così, ma niente di particolare, ma va, è inutile entrare lì, no, non ne vale la pena, perché non c'erano argomenti, nessuno ti ha salutato, non lo sai. Sono delle sere, magari non sai cosa di brutto, sono delle sere che ti viene da solo al momento. E vabbè, ieri per dire abbiamo parlato di macchine, di questo, dell'altro, e una cosa ha tirato l'altra e è andata avanti. Già va bene. Vabbè, quindi io ti saluto allora, buona continuazione di serata, grazie per i saluti, per essere entrato. Ci sentiamo un altro momento, ecco, oggi più gente. Ciao Giulio, ciao Gianni. Poi, adesso ora di entrare, anche che ti metto la musica. Veramente io ero da presto, poi mi sono stufato e l'ho spento. Ho riacceso adesso e ho sentito la voce perché non c'era nessuno in tutta la sera. No, io adesso ho fatto chiamata, appena mi ero smesso di fischiato, cantato. E che vuoi che ti dica? E adesso c'è Valerio da Alghero e Giuseppe. Lunedì ero a Alghero, lunedì mattina. Cosa? Lunedì mattina ero ad Alghero. Io non il tappo già ci vado, faccio una passeggiatina lì. Poi io invece ero per commissione. E vabbè, tanto la visuale appena ce l'ha avuta lo stesso. Mi fermare, passeggiata, capocaccia. Sono guardato il battello e dice che capocaccia c'è qui un cucato, lo so. Attenzione che non si sceglia, ha dormito, attenzione non si sceglia. Zanca. E Marco. Marco stamattina eravamo insieme, ma stasera non c'è passato, non lo so. È malattia, capito? Malattia. Può uscire solo 7 ore. Ma Marco? Eia, chiamami che ti spiego. Ecco. No, chiamami tu che non c'ho credito io dal telefono già.